Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche io ascolto Opencast Alfa Mistero. Opencast, puntata numero 51, il podcast del GL Como a cadenza variabile. Per questa volta abbiamo deciso di essere mensili, la prossima volta non si sa. Siamo in studio virtuale a causa delle restrizioni per il Covid che proseguono. Nello studio virtuale insieme a me abbiamo Elena e Diego. L'argomento di stasera sarà l'imminente rilascio della nuova release di Debian. Abbiamo il piacere, nonché l'onore, di avere con noi una persona che contribuisce attivamente alla community di Debian, che conosce, diciamo, un po' anche gli intimi segreti. Per cui direi di lasciare la parola a Elena che ci racconterà di cosa sta arrivando per le nuove versioni di Debian. Grazie, anche esagerato. Allora, la nuova versione di Debian, innanzitutto un breve riassunto di cosa fa, come funziona il ciclo delle release di Debian. Debian rilascia una versione cosiddetta stable, in cui le versioni dei pacchetti sono fisse, vengono fatti solo aggiornamenti di sicurezza o bug fix gravi, e questa versione viene rilasciata periodicamente. In più c'è la versione su cui invece si sta lavorando, ovvero su cui gli sviluppatori stanno lavorando, che in realtà sono due versioni. Una è unstable, che è dove vengono caricati i pacchetti, e l'altra è testing, che è dove i pacchetti arrivano dopo un breve periodo di prova e dove viene costruita la stable successiva. Al momento i nomi delle versioni di cui si sta parlando sono Debian 10 Buster, che è la stable attuale, che è stata rilasciata a luglio 2019. La testing attuale è Bullseye, che è molto vicina ad essere rilasciata. Il modo in cui viene rilasciata Debian è ogni due anni, in modo regolare, all'inizio dell'inverno, viene messa in freeze la testing, ovvero non è più possibile caricare qualunque pacchetto, ma ci sono delle date in cui si cominciano a non poter più caricare pacchetti essenziali. Poi non si possono più caricare pacchetti che non siano piccole fix, e alla fine non si carica più niente, la distribuzione viene dichiarata pronta e rilasciata. Le date della freeze sono fissate, la data del rilascio no. Questo perché, come da antica tradizione, Debian viene rilasciata quando è pronta. Ovvero non c'è una data precisa in cui quello che c'è si rilascia, ma si cerca di rilasciare qualcosa che sia veramente il più possibile priva di bug noti. Quest'inverno le date della freeze sono state il 12 gennaio, la prima freeze in cui non si potevano più fare modifiche ai pacchetti essenziali e ai pacchetti che richiedevano modifiche alle loro dipendenze. Il 12 febbraio una restrizione successiva, il 12 marzo l'ultima restrizione, adesso veramente non è più possibile caricare cose che non siano risoluzione di bug. E per quest'anno hanno annunciato una freeze completa in cui qualunque upload dovrà essere controllato dal release team a data da destinarsi, perché quando questa verrà annunciata si sarà a pochissimi giorni dalla release. E così, per curiosità, nel momento in cui verrà rilasciata la nuova versione, conviene aggiornare al volo o aspettare magari, non so, una minor release successiva? Allora, a seconda di cosa si sta facendo, se si sta parlando di un desktop o di un server critico, secondo me si può aggiornare tranquillamente da un paio di mesi prima del rilascio alla data precisa del rilascio, nel senso che proprio per come funziona Debian non c'è il problema di molti altri sistemi che rilasciano alla data in cui devono rilasciare e poi hanno ancora qualcosa da sistemare. Quello che andava sistemato molto probabilmente è stato sistemato, quindi per cui nessun rischio di, cioè rischio chiaramente è limitato, diciamo, il rischio è estremamente limitato. Poi su desktop è anche ragionevole pensare di aggiornare a testing 2 o 3 mesi dopo il rilascio della vecchia stable. Funziona abbastanza bene. Certo che se uno non vuole rogne, no, si tiene stable. Su un server non metterei mai testing appena nata. Io probabilmente comincerò ad aggiornare i primi serverini di casa che sono in casa, quindi si raggiungono, se succede qualcosa non bisogna andare chissà dove, nei prossimi giorni probabilmente. Perfetto, per cui restiamo in attesa, diciamo, di un annuncio di release imminente. Coi tempi Debian, che sono sempre tempi lunghi, è imminente. Certo, beh, certo, è un imminente con imminente tendente a Debian, diciamo. Esatto. Così, per curiosità, quante macchine dovrai aggiornare? Dunque, macchine è un... Abbiamo un po' di container in container. Sono container, ma di fatto usati come se fossero macchine virtuali in casa. Quindi, boh, una decina, credo, come ordine di grandezza. Un buon numero. No, io mi fermerò alla mia VPS 1 e poi ne approfitterò dell'aggiornamento imminente dell'hardware del Raspberry casalingo per magari passare a una versione Debian già aggiornata. Ecco, un'altra cosa che credo valga la pena di dire, Debian supporta ufficialmente gli aggiornamenti di sistema. Ci sono altre distribuzioni che dicono, ma sì, si può aggiornare, però sarebbe meglio reinstallare. Con Debian questo non è un problema. Io ogni tanto faccio delle reinstallazioni, soprattutto sul portatile, perché a un certo punto comincio ad aver installato programmi alla cavolo, si disinstallano, non c'è problema, ma a volte mi dimentico di disinstallarli e quindi ogni tanto dico vabbè, un po' di pulizia ci sta, ma lo faccio tipo ogni 3 o 4 release, o tipicamente lo faccio se devo cambiare hard disk a metà ciclo di release. Non c'è bisogno, per come funziona Debian, di dire no, ma è meglio fare un'installazione nuova. E questa è una cosa che posso confermare, dato gli avanzamenti di versione che ormai è già diverso tempo che sto facendo anch'io con le mie macchine. Non col desktop, perché sul desktop uso Arch Linux, per cui tecnicamente sto facendo degli avanzamenti continui tutti i giorni con sempre delle nuove novità, anche in termini di cose che smettono di funzionare. Ma questo è un altro discorso. Invece per quanto riguarda i pacchetti che installi che rimangono sul sistema senza ricordarti di più, anche quello è una cosa che posso confermare. Di solito io invece di reinstallare da zero, succede che quando lancio un aggiornamento che comincia a dirmi sto scaricando questi 200 mega di pacchetto vatte la pesca, e mi chiedo che cos'è il pacchetto vatte la pesca, chi è che l'ha installato? Vado a vedere, oh, caspita, l'ho installato io e non mi serve. Di solito è lì comincia la fase di pulizia di primavera proprio. Sì, ho presente. Torniamo a parlare di Debian, torniamo a parlare di Bullseye, parliamo di quali novità ci aspetta con la nuova release. Grandi novità sul fronte del software, ovviamente. Dopo 2 anni ormai passati dall'ultima release, abbiamo tutta una serie di software nuovi, quindi abbiamo un kernel nuovo, la versione 5.10, abbiamo una nuova versione di Gnome che è la 3.38 e KDE Plasma 5.20. Questo, diciamo, sono le novità forse più visibili per l'utente finale, visto che parliamo di interfaccia grafica, ma abbiamo anche novità per esempio per quanto riguarda la gestione delle stampanti. È stato migliorato il supporto per la stampa driverless in CUPS e anche per quanto riguarda le scansioni, quindi se uno ha una stampante multifunzione recente è probabile che gli funzioni molto meglio grazie alla gestione appunto driverless. Questa cosa funziona perché di recente sono stati introdotti dei protocolli standard per le stampanti che permettono di avere lo stesso software che funziona con stampanti diverse senza più dover installare il driver apposta per una marca piuttosto che un'altra. Posso far notare che il di recente è sempre in termini Debian, perché stavo leggendo sul wiki di Debian che le stampanti che supportano questa funzionalità sono diciamo le stampanti degli ultimi 10 anni, supportano questa funzionalità più o meno tutte recenti. Giustamente. Dipende anche dalla vita media della stampante, di solito 2 anni. No, scusa. No, io devo dire che di solito mi dura un po' più di 2 anni la stampante. Comunque, diciamo che novità interessanti, noi si parla sempre di Debian da un punto di vista server, ma vedo un sacco di novità da un punto di vista anche desktop, per cui diventa sempre più, diciamo, come dire, usabile da un utente medio sul proprio computer, diciamo. Potrei installarlo sul portatile di mia mamma senza nessun problema. Ma effettivamente il portatile di mia mamma ha su Debian, il computer dei suoceri ha su Debian. Vabbè, però non mi aspettavo diversamente dalla vostra parte, cioè per dire, capisci? Ma diciamo che il fatto da loro abbiamo messo Debian Stable perché il fatto di dover aggiornare il sistema ogni 2 anni e che non gli cambino le cose tipo l'interfaccia di LibreOffice sotto il naso ogni 6 mesi, in certi casi ha il suo perché. Mentre magari uno smanettone può preferire avere l'ultimissima versione di tutto, per molte persone, io compresa, vedersi cambiare il programma che si usa tutti i giorni è un fastidio. Sono perfettamente d'accordo, però spero che tu abbia adesso messo in conto un periodo di adattamento, dato che noto che tra le varie novità in arrivo con la nuova versione di Debian c'è anche l'aggiornamento di LibreOffice dalla versione 6 alla versione 7. Non so esattamente se cambia qualcosa di rilevante nell'interfaccia. Non lo so neanch'io, siamo le persone sbagliate. E sempre a proposito di desktop, per chi si diletta anche di grafica, arriva la versione 1 di Inkscape, che devo dire che è interessante. Mentre invece da un punto di vista più di sistema, sulla ultima versione di Debian, il prossimo rilascio, Python 3 viene portato dal 3.7 al 3.9. A proposito di Python, potrebbe valer la pena parlare un attimo del fatto che Bullseye comincia fortemente la deprecazione di Python 2. Chi fa sviluppo di software e ha bisogno ancora di Python 2 molto probabilmente comincerà ad aver bisogno di tenersi in giro delle checkerroot, macchine virtuali, buster. Oppure potrebbe aggiornare il software. Ecco, sì. Nel senso, se qualcuno si trova ad avere programmi in Python 2 che deve ancora far girare perché finalmente li sta facendo passare a Python 3 e ha bisogno di farlo in modo graduale, Allora, Bullseye continua ad avere l'interprete Python 2 e ad avere una piccola quantità di librerie, però il grosso è stato rimosso. Viene tenuto soprattutto perché ci sono alcuni pacchetti che hanno bisogno di Python 2 nel sistema di build. Non ricordo che pacchetti siano, ma erano pacchetti abbastanza importanti da far sì che fosse opportuno fare un'eccezione. Però fondamentalmente usare Python 2 non è più supportato. Dicevi, Fabrix? No, dicevo che questo è più un annuncio, un comunicato, una lettera aperta agli sviluppatori che hanno dei progetti che continuano a supportare solo Python 2, che ragazzi, Debian sta togliendo Python 2. Debian, forse siete un po' in ritardo, ma magari anche no, fate voi, però due conti, uno dice, vabbè. Invece, parlando dell'ultimo dettaglio in ambito, diciamo, desktop avanzato, se vogliamo chiamarlo così, una piccola cosa: viene aggiunto di default un alias a xdigitopen, che è il comando console che permette di lanciare i programmi dato il nome del file, diciamo l'equivalente riga di comando del doppio clic sull'icona. Viene configurato default un alias appunto a questo comando dal nome semplicemente open, che prima di tutto è più facile da ricordare, è più breve da scrivere e soprattutto non devo più farlo, perché lo stavo effettivamente facendo su tutti i miei sistemi sistematicamente. Se posso essere sincero, è una delle l'unica cosa che mi sono portato dietro dalla mia esperienza negli ultimi anni su OS X, è il comando che si chiama semplicemente open. Sono abbastanza contento che Debian abbia deciso di impostare questo alias di default, e me ne sono accorto perché effettivamente sul Pinephone Mobian, che è basata appunto su Bullseye, giusto ieri ho lanciato Open e ho pensato, oh guarda, ho messo l'alias anche qui, invece evidentemente era già entrato dal sistema di default. Allora, novità quasi storica: è tornato Arduino dentro Debian, o meglio, c'era una versione di Arduino in Debian, la 1.05, che era del 2013, che non era mai stata più aggiornata per problemi di licenza, che erano stati segnalati anche agli sviluppatori upstream, che hanno detto sì, adesso fra un attimo ci guardiamo, e adesso con un pochino di ritardo ci hanno guardato e hanno sistemato i problemi di licenze che c'erano. Come al solito queste cose le si vedono più spesso in Debian, perché su queste cose ci fa attenzione, e quindi possiamo festeggiare il fatto di avere l'interfaccia di Arduino recente, ma recente per davvero, nella prossima release di Debian. E certo che però loro stavano parlando con Debian, hanno detto adesso lo guardiamo, e poi hanno pensato sì, ma quei tempi di Debian è un po' tanto più lunghi, perché addirittura diciamo che sono uscite un paio, due o tre release di Debian nel frattempo. Mamma mia, questi sono veramente 10 anni. Per quanto riguarda il supporto hardware, grazie anche all'introduzione di kernel recenti, è migliorato il supporto per schede basate sul CPU Rockchip, come il 3328 e il 3399. Quindi se avete schede con questa CPU, potete installare tranquillamente una Debian, la nuova Debian su questa scheda. Tra parentesi, in realtà nel caso della 3328 era già possibile farlo, l'unica cosa è che il supporto non era ancora completo. Posso dire per certo che per esempio non funzionava l'audio. Se vogliamo rimanere nel mondo ARM, una segnalazione importante: se qualcuno ha decisamente una vecchia scheda ARM per il supporto a Armel, che è già da la versione vecchia dei processori ARM, è stata alzata la baseline da ARM V4 a ARM V5. Diciamo che processori ARM V4 bisogna tornare indietro almeno di 10 anni, ma proprio almeno. Sono proprio schede vecchie. Esatto. Avreste comunque avuto problemi perché probabilmente sono schede talmente vecchie che hanno, non so, 64 mega di RAM, che forse per una Debian recente vanno un po' strette. Che tempi, quando facevi girare una Debian su 64 mega di RAM. Esatto. Ma peggio ancora, potrebbero avere uno spazio di memoria su cui salvare il kernel e in ITRAM FS troppo piccolo per i kernel moderni. Tipicamente quegli hardware avevano anche quel problema. Bene, quindi abbiamo fatto una veloce carrellata delle novità che sono in arrivo con la nuova release prossima, di proprio dietro l'angolo, di Debian Bullseye. Un sacco, niente di stravolgente direi, però comunque cose interessanti, soprattutto dal punto di vista desktop, per chi lo sta usando come desktop. Volevo solamente ricordarvi che state ascoltando Opencast, che è il podcast del GL Como. Troverete tutte le puntate sul sito www.gl-como.it con tutti i link relativi a quello di cui abbiamo discusso in questa puntata. Troverete anche le puntate precedenti e abbiamo anche un account sul Fediverso, per cui se siete utenti Mastodon, Friendica o uno di questi progetti e volete venire a scriverci di quanto siamo stati bravi, simpatici e intelligenti, potete seguirci su glcomo@social.glcomo.it. Ma solo per commenti positivi, se dovete fare commenti negativi, no, proprio così, per presa di posizione. Abbiamo altro da dire? Augurarvi buoni aggiornamenti. E che siano buoni aggiornamenti a tutti. Va bene.